ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Cartellone. Di Elisabetta Fiorito. Bentornati a Cartellone, il rotocalco settimanale di teatro di Radio 24. Questa settimana iniziamo da Roma, dove al Globe Theatre va in scena una nuova produzione fino al 27 settembre, La dodicesima notte, una commedia degli errori shakespeariana. La regia è di Loredana Scaramella. Quale paese è mai questo, capitano? Questa è l'Illiria, signora. Che farò io in Illiria? Mio fratello. Degli Elisi. Piuttosto che una commedia degli equivoci, definirei La dodicesima notte come una commedia dell'illusione, perché si impernia su un travestimento che vede una fanciulla che fa naufragio in una terra sconosciuta e pensa di aver perduto il suo gemello e quindi è sola, travestirsi da uomo per proteggere la sua femminilità resa ancora più fragile da questa perdita. E se per caso non fossi annegato? Oh, mia signora Viola, è già per caso che voi siete stata salvata. Oh, mio povero fratello! Tutto questo è molto moderno e molto attuale, perché nessuno si innamora in questa storia di qualcuno reale. Ci si innamora di un'immagine. E questa è una cosa che ci appartiene molto. Nella nostra epoca, ma in particolar modo in questi ultimi mesi, abbiamo vissuto le nostre emozioni, le nostre relazioni attraverso immagini, abbiamo avuto incontri e forse in qualche modo anche innamoramenti, partiti sullo schermo di un computer, siamo noi. Anche in questa commedia, come in molti sonetti di Shakespeare, il tempo gioca un ruolo fondamentale. Come interagiscono i personaggi riguardo al tempo? Credo che il tempo sia uno degli elementi narrativi di questo testo. I personaggi corrono molto e un po' ci ricordano come siamo, però questa dimensione che è tipica del nostro essere umani ha una sua bellezza anche nella sospensione, e questa sospensione in questo testo è data dai momenti riflessivi affidati alle canzoni, scandite da tornelli e che credo renderanno il pubblico partecipe dello scorrere del tempo, delle nostre due ore passate insieme in maniera diversa. Quale ambientazione ha scelto, classica o moderna? La potrei definire fantastica. Non c'è un'epoca di riferimento precisa, ma forse c'è uno stile di riferimento che è lo steampunk, che però è uno stile fatto di contaminazioni, di elementi vittoriani, ma anche un po' medievali, anche un po' di epoche miste, ma caratterizzate da un comune denominatore che è il trionfo della meccanica e dell'orologeria. Un'allusione allo strumento per eccellenza che segna il tempo, che è un po' il protagonista di questa narrazione. Adesso andiamo a Verona, dove questa sera Alessio Boni sale sul palcoscenico al Teatro Romano con Fuga a tre voci, testo di Marco Tullio Giordana, che racconta l'amicizia tra la poetessa Ingeborg Bachmann e il compositore Hans Werner Henze. Caro Hans Werner Henze, la sua lettera mi ha dato molta gioia. Quello che lei dice delle mie poesie vale anche per me con la sua musica. Mi sembra di averla sempre conosciuta, di averla cantata da bambina. Mi si offre spontanea, vicina, meravigliosa e pervasa di una consapevolezza finora sconosciuta. Ingeborg Bachmann è una scrittrice, poetessa, giornalista austriaca, e Hans Werner Henze è un compositore tedesco. Si incontrano a 26 anni, a pochi giorni di distanza del loro compleanno, sono proprio vicinissimi, e si innamorano. Cioè, si innamorano proprio nel senso alto dell'amore, l'amore di tutti gli amori, quelli platonici, quelli straordinaria, ha trovato l'altra metà della mela, ma non per un fatto sessuale, perché Hans è omosessuale e invece Ingeborg è eterosessuale, ma proprio per affinità elettive, come diceva il famoso Goethe. Tutto questo attraverso un carteggio, tutte queste sono lettere, uno stava da una parte, uno dall'altra, eccetera, anche da diverse parti del mondo. Cosa avevano anche in comune in modo veramente molto peculiare, preciso, straordinario? Che gli piaceva da morire il bel paese, come l'aveva descritto sempre Goethe, gli piaceva da morire Napoli, Ischia, l'Italia in generale. Hanno vissuto parecchio a Ischia, hanno vissuto a Napoli, hanno vissuto a Roma, lei poi dopo se ne andrà a Roma. L'autunno scorso avevo preso una casa a Positano, quest'anno ci tornerò semplicemente perché non ho nessuno che mi consigli qualcosa di diverso. La Sicilia sarebbe molto stimolante. Sono arrivato soltanto fino a Palermo, dove si respirava proprio l'aria da lei descritta. Lo splendido scirocco, i giorni, le notti incendiati dalla calura che sopporto meglio del clima delle nostre nordiche contrade. Quale momento di questa amicizia l'ha colpito di più? Sì, mi ha colpito di più proprio questo loro amore, che è quasi una fratellanza, una sorta di costola che si allunga con l'altro, cioè proprio un'appartenenza. E... Cara Ingeborg Bachmann, dunque sembra non sia più possibile avere sue notizie. Sono stato un solo giorno a Vienna. Avrei adorato incontrarla lì. La città mi è piaciuta molto, non c'ero mai stato. E per tutto il tragitto dall'aeroporto non ho fatto che pensare ai paesaggi che descrive lei e che avrei voluto sentir raccontare dalla sua voce. La teatralità di Hans è quello che mi ha colpito di più, che esortava anche Ingeborg quando era in certi momenti depressa, eccetera, l'importanza che aveva, perché una donna così con talento del genere non può far altro che scrivere, mettersi a scrivere. E se c'è una frase che mi ha colpito proprio nelle lettere è di scrivere in luna crescente e correggere tutte le bozze solo in luna calante. Lui è così che scriveva, componeva le sue opere. In Alto Adige, per Boccaccio Reloaded, 8 scrittori altoatesini si ispirano al grande scrittore fiorentino per nuovi racconti sulla pandemia della durata massima di 2 minuti. Ci racconta tutto il regista Nicola Brenner. Ogni giorno ci racconteremo una novella. È una gioia essere la prima a raccontarvi la storia di un amore e di una resurrezione. Boccaccio Reloaded è un progetto delle Vereinigte Bühnenbürzen. È un progetto seriale, sono 10 episodi e ogni episodio è il nome di uno dei 10 personaggi del Decamerone di Boccaccio. Diversi autori hanno scritto dei testi, ciascuno della durata di 2 minuti, ispirati al Decamerone di Boccaccio, in particolar modo al tema della giustizia e ingiustizia, visto dal punto di vista di oggi, di adesso. In che modo questa pandemia ha gettato un'altra luce su questo argomento. Ci può dare un assaggio dello spettacolo? Ci saranno 2 attrici che reciteranno questi testi da dentro una sorta di gru che si alzerà e si abbasserà con l'attrice dentro. Poi ci sarà un batterista che suonerà la colonna sonora dal vivo. Ci saranno questi testi stilisticamente anche molto molto diversi da loro. Sarà una performance veramente totale. Noi sapremo farti sparire. Neanche immagini cosa possiamo fare. Lo spettacolo è in 2 lingue, in italiano e in tedesco. Metà dei testi sono in tedesco, metà in italiano. Io sono bilingue, un'attrice è di madrelingua italiana, un'attrice di madrelingua tedesca, e in questo modo cerchiamo di portare questo spettacolo in giro per l'Alto Adige per tutti. E finiamo tornando a Roma, dove stasera la Galleria Sciarra, nell'ambito della rassegna Il Quirino in Galleria, viene messo in scena Un tè per 2 regine, l'incontro tra Peggy Guggenheim e Palma Bucarelli, 2 donne che hanno rivoluzionato la storia dell'arte. Il primo inverno a Parigi trascorse molto bene, ma a primavera i tedeschi si avvicinarono tanto alla città che io pensai subito di mettere in salvo i quadri. Interessava sai più salvare i miei quadri che me stessa. Il regista Francesco Suriano. 2 donne geniali sotto ogni punto di vista, con la loro grande cultura e il loro spirito anche imprenditoriale, sono riuscite a fare sì che l'arte contemporanea del Novecento si formasse in Italia, Francia e negli Stati Uniti. Non saprei dire se oggi si possa creare la stessa possibilità, sono invece certo che solo 2 donne così abili potevano fare quello che loro hanno fatto. Sono due donne che ognuna nella propria competenza, la Guggenheim come collezionista e gallerista appunto per quello che riguarda il privato, Palma Bucarelli come direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma per quello che riguarda il pubblico, sono state fondamentali e si sono anche in qualche modo imitate sotto molti aspetti senza sapere nulla dell'una e dell'altra in molte cose. Una per tutte su come hanno salvato le opere d'arte contemporanee durante la Seconda Guerra Mondiale da bombardamenti o da possibili razzie. Pollock fu molto felice di accettare questa offerta. In quell'epoca, infatti, lavorava come carpentiere presso mio zio al Museo Guggenheim, ma mio zio ne ignorava persino l'esistenza. Non solo l'ho scoperto, ma l'ho anche spinto e aiutato ad affermarsi, perché io credo che gli inizi, i primi passi, sono sempre i più importanti. Qual è il momento, la battuta dello spettacolo che ama di più? E quando racconta a Palma Bucarelli di come è arrivata alla Biennale, che si è formato praticamente un padiglione, è stato in qualche modo creato per lei. Infatti a un certo punto dice: c'è il padiglione dell'Italia, Gran Bretagna, della Francia, della Polonia, della Danimarca, del Belgio, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Romania, e c'è il padiglione Guggenheim. Mi sento una nazione. E mentre la battuta che amo di più per quello che riguarda Palma Bucarelli è verso il finale, in cui dice: io volevo diventare Caterina di Russia, in posa ieratica, al vertice della scalinata della galleria, attendevo i presidenti della Repubblica, era come se la galleria fosse diventata un organo del mio corpo. E anche per questa puntata è tutto, grazie ad Alessandro Chiappini in regia. Vi do appuntamento sempre sabato alle 15.15 e vi ricordo che potete riascoltare sul podcast Cartellone.